Buongiorno. Buongiorno e benvenuti alla prima di queste cinque lezioni sul jazz organizzate da Musica per Roma. Vorrei ringraziare le persone dall'organizzazione allo staff che ha messo su questo ciclo di incontri che andrà avanti fino a maggio. Racconteremo un viaggio in un capolavoro. In realtà queste lezioni, come scoprirà chi vorrà frequentarle tutte, toccano diversi ambiti tematici, sono articolate in modo molto diverso. Uno di questi ambiti tematici che vorremmo esplorare è entrare in un disco, entrare in un brano e raccontarlo nel dettaglio. Raccontare il disco, raccontare il brano o raccontare, come faremo oggi, come si giunge a quel capolavoro. In particolare questo ciclo di lezioni comincia con un disco celebre, Kind of Blue, forse il più famoso disco di jazz, un disco che spesso hanno in casa anche coloro che non sono strettamente appassionati di jazz, e proveremo a raccontare, lo dico subito, anzi, cosa non racconteremo oggi. Non racconteremo tutto quello che potete trovare facilmente su molti libri che ci sono sull'argomento, alcuni li vedrete citati in conclusione di questa conferenza nel caso vogliate approfondire quello che contiene questo famosissimo disco. Quindi non racconteremo tutta la storia della seduta di incisione, non racconteremo le vicende relative al famoso studio della Columbia, che era una vera e propria chiesa sconsacrata. Non racconteremo il ruolo dei produttori, ma invece vorrei raccontarvi non quello che è successo durante la seduta di registrazione e neanche raccontare quello che c'è dopo questo disco, che in realtà è un disco che, come saprete, ha influenzato musicisti jazz, musicisti classici, musicisti rock, ha ispirato generazioni di artisti, ma invece vorrei raccontare quello che c'è prima di questo disco, cioè come si può arrivare, attraverso quali strade complesse un certo numero di persone, di musicisti, sono giunte gradualmente a mettere a fuoco le idee che si trovano in questo album. Perché questo album in realtà è il risultato di uno sforzo complesso, di una interazione fra musicisti, ed è la messa a fuoco, dicevo, di idee, suggestioni, ispirazioni, che sono andate coagulandosi gradualmente nel corso di molti anni e che hanno coinvolto un cenacolo, un circolo di persone. La prima cosa da ricordare è che ci sono due figure chiave, forse tre in realtà, in questa storia. E la più importante delle quali è, oltre a Miles Davis, Gil Evans. Perché qui vedremo non c'è una storia di leader o di compositori che sono al centro di una storia. La storia di Kind of Blue è una storia di tante teste, una storia decentrata, una storia di idee diffuse. E tutto nasce da un cenacolo di persone. E questa è una cosa curiosa. Di solito il jazz è una musica, lo sappiamo, che si fa sul palco. I musicisti dialogano fra di loro con gli strumenti, in jam session, suonando, ispirandosi nell'atto concreto del fare musica. I jazzisti non passano per essere degli intellettuali che si mettono intorno a un tavolino a discutere di musica, e in effetti il più delle volte è così. Eppure nel caso di quello che accade alla fine degli anni 40 accade proprio il contrario, come a volte è successo nella storia della musica classica. Dei musicisti si sono messi intorno a un tavolo a discutere di musica. E questi musicisti ruotavano intorno a Gil Evans e a Miles Davis. Era un giro di musicisti con delle storie molto particolari. Vi voglio far vedere una mappa tra il 1947 e il 1948 delle persone che ruotavano intorno a Miles Davis e Gil Evans. È una mappa adattata dal mio libro di storia del jazz. Ci sono un sacco di nomi, forse qualcuno si sentirà come dall'oculista nel tentativo di cogliere, ma è una strategia fatta poi per invitarvi a comprare il libro, per poter leggere attentamente quello che c'è. In realtà la complessità, adesso davvero a colpo d'occhio, non è che voglio analizzare nome per nome, ma serve a farvi capire che intorno ai musicisti che ruotavano a questo, in questo cenacolo, il cenacolo era casa, casa è una parola un po' grossa, era il monolocale di Gil Evans, presso il quale si ritrovavano vari musicisti, Miles Davis, Johnny Carisi, George Russell, Jerry Mulligan, Claude Thornhill, Claude Thornhill era in realtà il leader per cui lavorava Gil Evans. Tutti questi musicisti erano immersi in una rete di relazioni complesse, soprattutto in una rete di relazioni che ci fa capire che la vecchia idea che noi abbiamo per cui i jazzisti stanno da una parte, i musicisti di pop stanno da un'altra, i musicisti classici stanno da un'altra parte ancora, è una idea falsa. I musicisti hanno sempre dialogato fra di loro, hanno sempre avuto relazioni musicisti di scuole differenti. Per esempio, tanto per mostrarvene una curiosa, vedete il nome di Claude Thornhill, era un musicista che aveva un'orchestra da ballo molto singolare per la quale scriveva musica Gil Evans. Non solo, Claude Thornhill era stato influenzato da Glenn Miller, ecco perché c'è quella freccia che scende da Miller a Thornhill, e per l'orchestra di Thornhill scriveva un arrangiatore che si chiamava George Handy, che a sua volta aveva studiato, pensate un po', con Aaron Copland. Quindi c'è una mescolanza tra jazz, musica sperimentale come quella di Handy, musica classica americana come quella di Copland, musica da ballo come quella di Miller, e tutto questo converge verso la figura di Gil Evans, che era al centro di una serie di interessi e di ispirazioni musicali molto complesse. Questo tanto per darvi una idea. Notate che c'è tra l'altro lì all'estrema sinistra un nome, Stefan Volpe. Stefan Volpe è una delle figure interessanti che girano intorno a questa vicenda. Qui vedete anzitutto la figura chiave di Gil Evans. Sono tutti musicisti, come vedrete, di generazioni piuttosto diverse. Nel 1948 Miles Davis aveva 22 anni, mentre Gil Evans ne aveva un po' di più, come vedete. Era un musicista canadese, autodidatta, che aveva però già una notevole esperienza di arrangiatore, anche se era un musicista fuori dai grandi giri. Si ritrovano Gil Evans e Miles Davis, appunto, a casa di Gil Evans e discutono di musica. Discutono di un nuovo sound da creare, discutono di un nuovo linguaggio musicale, coinvolgono Jerry Mulligan, coinvolgono George Russell, adesso via via presenteremo questi personaggi, coinvolgono John Lewis, Lee Konitz. Questi musicisti, come vi dicevo, avevano in mente l'idea di creare una musica con un sound diverso. Un sound che, notate, comprendeva il basso tuba, comprendeva il trombone, qui non si vede ma c'è anche lì dietro il basso tuba un corno, vedete Miles Davis in piedi, ragazzino, questa foto è del, se non ricordo male, del 48-49, Lee Konitz ha poco più di 20 anni, Davis lo stesso, l'età media è 21-22 anni, Jerry Mulligan di spalle col baritono, e la famosa tuba band di Miles Davis. Miles Davis in quel momento era, tra tutte le persone che vedete lì, semplicemente il musicista più noto, non necessariamente il più bravo. Aveva la leadership di questo gruppo perché aveva suonato con Charlie Parker, aveva più esperienza di tutti gli altri nel rapporto, per esempio, con i locali, con i promoter, con la pubblicità, e quindi gli affidarono, anche se il progetto era collettivo, l'incarico di dirigere questa band. Questa band, come sapete, poi con questo organico strano, con questo suono particolare, lascerà un segno profondo nella storia del jazz e una decina d'anni dopo verrà raccolta sotto l'etichetta Birth of the Cool, la nascita del cool, perché ci si renderà conto 10 anni dopo che i dischi prodotti da questa band, che ebbe una durata brevissima, pensate, suonarono dal vivo solo per 2 settimane, poi finì lì. Quei dischi però, incisi poco dopo, influenzeranno profondamente tutto il jazz degli anni 50. A noi però non interessa immediatamente la musica della band di Miles Davis, ci interessano le relazioni musicali e intellettuali che Davis, Gil Evans e altri musicisti avevano in quegli anni a New York. Vi dicevo prima il nome di Stefan Volpe. Stefan Volpe era un compositore tedesco che era stato allievo di Arnold Schoenberg e durante, diciamo, dopo l'arrivo del nazismo era fuggito negli Stati Uniti, dove si era messo a insegnare. E tra i suoi insegnanti, tra i suoi allievi, c'erano a New York un sacco di musicisti di area jazzistica, bianchi e neri. C'erano Johnny Carisi, poi vedremo chi è Johnny Carisi, c'era Tony Scott, che sicuramente conoscerete, il grande clarinettista, c'era George Russell, un giovane compositore afroamericano, destinato a una grande carriera. Questi musicisti andavano da Stefan Volpe per studiare composizione e studiavano composizione da un musicista, guardate un po' i paradossi della storia, che negli anni 20 si era molto interessato al jazz. Non era l'unico. L'arrivo del jazz in Europa negli anni 20 segnò una specie di ventata rinnovatrice in molta musica classica di quegli anni, soprattutto di ambito neoclassico, ma non solo. E molti compositori tedeschi, come per esempio Erwin Schulhoff, che in realtà era cecoslovacco, o Stefan Volpe, inglobarono degli elementi di questa nuova musica americana dentro il linguaggio del o dodecafonico o del neoclassicismo. Volpe fu uno di questi. Tant'è che per farvi capire che idea di musica avesse, vi faccio sentire un breve pezzo che lui chiama Blues, scritto nel 1926, quando era in Europa. E questo blues, secondo Volpe, suona in questo modo. Perché vi ho fatto sentire per intero questo brano? Perché l'ironia della storia è che il compositore europeo Stefan Volpe, influenzato dal jazz negli anni 20, si ritrova 20 anni dopo negli Stati Uniti a insegnare composizione a dei jazzisti. Questo successe a diversi compositori, tra l'altro, pensiamo anche a Darius Milhaud, per esempio, che era rimasto folgorato dall'ascolto del jazz nei primi anni 20 a New York e poi 30 anni dopo si ritroverà tra gli allievi, per esempio, Dave Brubeck, quando si trasferirà negli Stati Uniti. Perché ci interessa la musica di Volpe? Perché Volpe era interessato, avete sentito, ci sono degli elementi stravinskiani in quello che abbiamo ascoltato, armonicamente però la cosa è molto strana, e lui aveva una particolare attenzione per le scale o per i blocchi, diciamo, parti di scale, cioè invece di dire uso tutta la scala di Do maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, uso solamente 5, 6 di queste note, cioè ritaglia dalla scala un gruppo di note e lavora su questi aspetti. E questi suoni strani che sentite sono il risultato della combinazione di questi ritagli di scale. L'influenza di Volpe si fa sentire molto bene proprio su alcuni dei musicisti che scrissero musica per il gruppo di Miles Davis. Uno di questi è un musicista di cui oggi non si ricorda nessuno, che è Johnny Carisi, che suonava anche la tromba, che ha scritto pochissima musica, tutta di altissima qualità, e in particolare alla fine degli anni 50 ha scritto alcuni tra i primi pezzi in cui ha mescolato dodecafonia e jazz con grande efficacia. Di Carisi, ho fatto un giro su Google, sono riuscito a trovare solo questa foto da barbiere, diciamo così, un po' così sgarrupata, di Carisi in realtà il pezzo più famoso fu scritto da Carisi per il gruppo di Miles Davis, quello di cui abbiamo visto prima la fotografia, per la tuba band di Miles Davis, e si chiama Israel. È un pezzo che poi è diventato uno standard, è un blues in minore. Noi adesso non lo ascoltiamo tutto, però vorrei farvi sentire l'inizio di Israel, l'introduzione e poi l'esposizione. Fate molta attenzione, Nell'introduzione, poi potete magari riascoltarvelo a casa con più calma perché è un disco famosissimo, nell'introduzione Carisi adotta delle soluzioni che vengono dall'insegnamento di Stefan Volpe, cioè combina le note pensando agli intervalli. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non suona gli accordi così come gliel'hanno insegnati, insegnano l'armonia classica, nell'armonia classica, ma crea degli accordi basati su altri tipi di regole, su altri tipi di combinazioni sonore. Dopodiché si sente il tema di Israel, che per essere un blues è un tema stranissimo, è quasi dodecafonico, non è del tutto dodecafonico, quasi, pur essendo sul giro del blues in minore. Dopodiché il tema viene rifatto e c'è un contrappunto, che è una cosa abbastanza rara nella scrittura del jazz. Un vero e proprio contrappunto come nella musica classica o, si potrebbe dire, come nella musica neoclassica di metà anni 20, ascoltata poc'anzi. Questo è l'inizio di Israel. Sentite com'è strano? Tema. Qui è inusuale. Atonale. Contrappunto. Ora, un altro allievo di Stefan Volpe era George Russell. Stiamo parlando qui tutto di compositori. Notate che è una prospettiva sul jazz forse diversa da quella a cui siamo abituati, cioè l'improvvisatore. Abbiamo sentito Miles Davis che fa un assolo, che improvvisato sul giro del blues. Però le persone che architettano questa cosa, anche se Davis è il leader di questo gruppo, sono dei compositori. Russell non scrisse nulla per il gruppo di Miles Davis, però partecipò al cenacolo, alle discussioni con Gil Evans, con Carisi, e soprattutto immagino che a casa di Stefan Volpe si incontrassero anche Carisi, Russell e naturalmente anche Tony Scott. Russell, che aveva ambizioni di batterista ma poi per ragioni di salute fu costretto a smettere la carriera di musicista attivo, cominciò alla fine degli anni 40 a dedicarsi alla composizione. Sapete che scrisse tra il 47 e il 48 un capolavoro giovanile che si chiama Cubano B, Cubano Bop per l'orchestra di Dizzy Gillespie, ma poi cercando faticosamente e lentamente di guarire dalla tubercolosi, un po' in ospedale, un po' a casa, cominciò a concepire quello che è l'unico vero, grande e primo soprattutto trattato del linguaggio jazz della storia. Ed è un libro citatissimo che ha un titolo molto complicato, Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, che fu, la parola pubblicata un po' grossa, è una specie di autoproduzione che cominciò a circolare nel 1953. Che cos'è il Lydian Chromatic Concept, di solito chiamato semplicemente Lydian tra i musicisti? È un libro smilzo, almeno nelle primissime edizioni, poi è andato via via ingrandendosi, nelle primissime edizioni era un piccolo libro, che per la prima volta tentava di dare una sistemazione teorica all'improvvisazione jazz. E lo faceva, ovviamente, influenzato dalle teorie di Stefan Volpe e anche, direi, da quelle di Paul Hindemith, un altro importante compositore tedesco che si era trasferito negli Stati Uniti. L'idea di base era questa. Tra l'altro poi il Lydian Chromatic Concept è diventato il paradigma di tutta la didattica jazz. Se ci sono qui musicisti di jazz o insegnanti, forse sapranno che tutti i manuali che oggi compriamo anche nella libreria qui dell'auditorium sono tutti modellati sull'esempio del Lydian Chromatic Concept. Russell in sostanza sosteneva delle idee avanzatissime che hanno anticipato addirittura il free jazz, secondo le quali l'improvvisatore aveva a disposizione una gamma molto ampia di insieme di note, non solo le solite scale, ma una gamma molto più ampia a cui aveva dato anche dei nomi abbastanza bizzarri. Vi faccio vedere, non spaventatevi, chi non legge la musica non si spaventi, e tanto per farvi capire il meccanismo concettuale di Russell, questa è una pagina del suo Lydian Chromatic in cui lui dice: posso costruire sette scale principali con delle dissonanze, e queste sette scale contengono dei principi variabili di dissonanza. Cioè ci sono delle scale più consonanti, più dolci e delle scale più dissonanti, più aspre. E Russell spiega tutta una serie di principi che consentono all'improvvisatore di usare con grande libertà il bilanciamento fra la consonanza e la dissonanza. Questo bilanciamento consente al compositore e all'improvvisatore di lanciarsi anche in, come posso dirvi, in voli di scrittura o di improvvisazione molto liberi, fuori dagli schemi ordinari. E questo perché? Perché questo è molto importante poi per capire come si arriva a Kind of Blue, perché l'obiettivo dell'improvvisatore non è quello di stare attento agli accordi che ci sono sotto, ma di pensare liberamente alla melodia sopra, anche molto dissonante, perché ci interessa il modo in cui combinare le note nella melodia. Ora, Russell ha lavorato con moltissimi musicisti in quegli anni. Uno dei suoi più vicini adepti e musicisti che lui rispettava di più era un giovanissimo sax alto che evidentemente conosceva già dai tempi in cui frequentava il cenacolo di Gil Evans e Miles Davis, cioè Lee Konitz. E proprio nel 1951 Lee Konitz registra una delle più importanti composizioni di George Russell, che si chiama Aesthetic. È un pezzo, lo sentirete, molto dissonante, molto strano. È basato sulle armonie di un pezzo di Cole Porter, pensate un po', Love for Sale, che però sono completamente stravolte, diciamo così. Non è che non si riconosce Love for Sale sotto. Sopra Russell scrive una di quelle melodie tutte contorte, come quella cosa dissonante che vi facevo sentire al piano, e la fa suonare a Lee Konitz. Nel gruppo c'è anche Miles Davis. Siamo sempre lì, nel giro di amici che si incontravano a casa di Gil Evans. La parte di tromba che Davis deve leggere è un contrappunto, un po' come nel pezzo di Carisi, una seconda linea aggiunta alla melodia principale scritta per Lee Konitz. Ve li faccio sentire Aesthetic. Questo per dirvi come Miles Davis fosse in contatto, insieme a Lee Konitz, con le idee di George Russell, che erano in parte nutrite dai discorsi all'interno del cenacolo Davis-Evans e in maniera più o meno indiretta dalle lezioni di Stefan Volpe. Sentite la melodia com'è strana. Anche la tromba sotto è strana. Ora immaginatevi la situazione, Miles Davis suona in una seduta di registrazione a nome di Lee Konitz con questo stranissimo pezzo, veramente pazzesco per l'epoca, di George Russell, che stava scrivendo un libro in cui si raccontavano i principi di questa musica strana. Volete che Davis non abbia gettato uno sguardo su questo libro? Volete che non ne abbiano parlato? Questa è una cosa che le storie del jazz non raccontano mai, perché ci basiamo sui dischi, su quello che possiamo tangibilmente provare, ma dobbiamo anche immaginare quello che succedeva dietro le quinte. Erano musicisti, parlavano di musica, Russell era stato a lezione da Stefan Volpe, Volpe era amico di Gil Evans, volete che Davis non lo sapesse, non ne parlassero, non si fosse incontrato con Volpe e non si fossero posti anche delle domande su questa musica stranissima che erano lì a leggere in studio. Quindi io direi che il Lydian Chromatic, questo libro in cui che dice guarda tu puoi suonare delle scale strane, qualsiasi cosa succeda sotto, deve aver circolato moltissimo. Noi lo sappiamo che i musicisti se lo passavano, è un libro che non si trovava nei negozi, era una cosa autoprodotta, ciclostilata e distribuita in maniera semiclandestina. Peraltro senza che Russell ne avesse particolari benefici, perché in quegli anni lavorava facendo il commesso in un negozio, un genio assoluto della musica. Voi andate a comprare una chiave inglese e vi sta dando la chiave inglese uno dei massimi geni della musica. Era così. A un certo punto però Russell ha la possibilità di cominciare a entrare nel giro musicale e ha modo di incontrare un altro musicista importante che stava emergendo in quegli anni, e cioè Bill Evans. Bill Evans è praticamente la scoperta, è stato scoperto fra il 55 e il 56 da due musicisti, tutti e due importanti nella nostra storia. Uno è George Russell e l'altro è Tony Scott. Io vorrei farvi vedere questo filmato da una trasmissione televisiva della fine degli anni 50, in cui un giovane Bill Evans, che vedete al pianoforte, insieme a Art Farmer e altri musicisti, ma il solista principale è lui, suonano una composizione che George Russell aveva scritto appunto per Evans, che si chiama Concerto for Billy the Kid, e che era stata registrata nel 1956 e nella parte centrale è basata sulle armonie di uno standard che si chiama I'll Remember April. È il passaggio dove sentirete l'assolo improvvisato di Evans, che per il resto legge, come vedete anche da questa foto, ora vedremo il filmato, la complessa partitura di Russell scritta secondo i suoi principi dell'Indian Chromatic. Quindi capite che Bill Evans, anche lui, è cresciuto assorbendo i principi dell'Indian Chromatic Concept di George Russell. George Russell was here tonight. The reason he was commissioned by Brandeis University, and this summer he'll be teaching advanced composition at the School of Jazz at Lenox, Massachusetts. Mr. Russell has developed a highly personal musical idiom. We brought here a quartet which has frequently recorded his work, joined some of our regular players in first number of his, Concerto for Billy the Kid. Now, Billy in this case is not the young bandit of legend, but Bill Evans at the piano. Here is Billy the Kid. Dissonanze, contrappunti. E poi c'è, è fantastico, sì. Poi c'è, segue un'intervista a George Russell che si intravede lì emergere nella dissolvenza incrociata. Evans, Bill Evans, vi dicevo, non era stato scoperto solo da George Russell. Negli stessi mesi, siamo all'inizio del 56, se lo contendevano Russell e Tony Scott. E con Tony Scott Evans ebbe modo di incidere un brano curioso che merita un attimo di spiegazione. Nel 1956, un pezzo modale. Che cosa vuol dire modale? Cerchiamo di capire una volta per tutte questa strana parola. Allora, provo a spiegarvelo col pianoforte. Se io improvviso, ci sono sostanzialmente due modi in cui posso decidere le note che ci sono sopra. Uno, che è il modo di improvvisare più consueto nel jazz, quello cosiddetto tonale, fa sì che ci sia un accompagnamento, per esempio. I fan di Gino Paoli sentiranno qualcosa di familiare. Oppure una cosa più complessa. Provo a sedermi così viene un po' meno. E immaginate di, quando scegliete le note che ci sono sopra, queste note sono condizionate dagli accordi che ci sono sotto. Per esempio, se io faccio sul secondo accordo, devo scegliere delle note che sono anche sull'accordo sotto. Quindi non posso fare, per esempio, ma devo fare, vi regalo questa melodia se volete farci un capolavoro immortale. In questo caso le note che faccio su sono determinate dagli accordi che ci sono sotto, ma io posso fare anche in un altro modo, e cioè decidere che comanda la melodia, come nell'Indian Chromatic Concept, come nei set di note stabiliti da Stefan Volpe, cioè tengo fermo quello che succede sotto, per esempio decido di suonare per 20 minuti questa base, e sopra mi invento una melodia. Lo so che avete pagato per sentirmi parlare e non suonare, quindi qualcuno potrebbe protestare, però quello che ho fatto è che sotto c'è sempre lo stesso accordo e sopra mi invento una melodia. La invento su una scala. Ora, la parola scala ha, e qui sono lievemente impreciso, ma non fa niente, ha praticamente un sinonimo, che è la parola modo. Non sono, da un punto di vista strettamente musicologico, la stessa cosa, però qui lo facciamo essere la stessa cosa. Modale vuol dire basato su un modo, cioè è basato su una scala. Non mi interessa, l'accordo sotto lo tengo fermo e mi invento una melodia sopra. Capite che questo vi dà un'altra libertà, perché tu non sei vincolato da quello che succede nell'accompagnamento, non devi scegliere le note, se cambia la nota dell'accompagnamento la devi cambiare anche sopra. No, lì l'accompagnamento è fermo su un accordo e tu scorrazzi liberamente su questo modo. Di solito Kind of Blue viene considerato il primo, più importante disco di jazz modale, cioè disco in cui gli improvvisatori lavorano su questi modi, su queste scale, infischiandosene degli accordi che ci sono sotto, anzi eliminando gli accordi. Non è così. In realtà esistono, come vedremo, molti precedenti a Kind of Blue, e uno degli artefici di questi precedenti, guarda caso, è proprio Bill Evans, l'uomo che era cresciuto anche ascoltando e lavorando con George Russell. C'è un pezzo dal buffo titolo Aeolian Drink Song, Eolio è il nome di questa scala qui, La Eolio. Sono nomi greci, è una storia un po' lunga, è complicata da spiegare, ma insomma, praticamente l'intero pezzo che andiamo ad ascoltare, magari poi a un certo punto lo interrompiamo, chiederò cortesemente al tecnico di fare una sfumata quando... gli farò un cenno, altrimenti ci allunghiamo troppo. L'intero pezzo è basato, non ha un tema, non ha niente, è questo accompagnamento e si suona liberamente sul modo di La Eolio. Naturalmente sono Tony Scott e Bill Evans i principali solisti. Notate che il pezzo praticamente non ha, come posso dirvi, non ha confini, potrebbe andare avanti mezz'ora in questo modo, perché non c'è nessun tipo di sintassi, solamente la scala di base, il modo su cui si improvvisa liberamente. Questo dà una libertà melodica nuova. E siamo nel 1956, Bill Evans, George Russell, Tony Scott, tutte persone che tra l'altro erano molto note nel mondo del jazz in quegli anni. A un certo punto anche Miles Davis si è avvicinato a questo concetto. Sembra che ci si sia avvicinato, intanto perché avete sentito, aveva suonato per George Russell, Ed Static, e sicuramente aveva sfogliato il Lydian Chromatic Concept, ma anche perché ne aveva parlato con Gil Evans. E vedremo dopo meglio questa cosa di Gil Evans. Ma ebbe anche un'esperienza importante che gli fece capire che vi faccio sentire una cosa interessante, sempre di Bill Evans. Faccio un passo indietro. Oggi ho deciso di fare del terrorismo psicologico e quindi vi faccio vedere anche degli spartiti. Faccio un passo indietro. Bill Evans lavorerà su questo concetto modale anche un po' più avanti, in un pezzo di cui sentiremo un frammento che si chiama Peace, Peace, che vuol dire, in gioco di parole, un pezzo pacifico. Si basa su due accordi. Ok? Ora, se io ho solamente questi due accordi, in realtà la scala su cui suono, il modo famoso, sono tutte le note bianche del pianoforte. Cioè posso suonare quello che mi pare. (Susurra) eccetera. Ma invece di farlo io, vi faccio sentire un pezzetto di Bill Evans che lo suona. È solo un esempio appunto delle possibilità che ti dà il modale anche di creare queste atmosfere sospese, perché la musica ha questo effetto, non va avanti, è lì, ferma. Allora o gli dai la spinta, per esempio come facevano Tony Scott e Bill Evans con l'energia ritmica, oppure ne approfitti e ti adagi su questa specie di nuvola sonora statica creata da Bill Evans. Vi dicevo di Miles Davis e del suo interesse per questo genere di esperimenti, e in particolare lavorando con John Coltrane, che era un altro musicista che stava sviluppando un interesse simile. Coltrane, vedete qui in una foto Coltrane e Davis insieme. Sapete che Coltrane entrò nel quintetto di Miles Davis intorno alla fine del 1955 e a un certo punto Coltrane cominciò a essere interessato ad una serie di principi che sfioravano l'idea del modale. Come sapete, poi Coltrane diventerà uno dei musicisti che sfrutteranno il modale al massimo. Qual è l'idea? L'idea è questa, è che io posso avere anche un giro di accordi. Ok? Poi però magari posso trovare un punto in cui introduco una nota che sta ferma. Comincio. Questa nota che si ferma si chiama pedale tecnicamente, è una tecnica universale, antichissima, e che cosa crea? Crea un momento di stasi. In quel momento di stasi tu sopra puoi suonare, detto letteralmente, quello che ti pare, perché tutto funziona. George Russell ci insegna con le sue scale che puoi graduare la dissonanza e la consonanza, ma praticamente sei libero. Tenete conto che Coltrane nel 57 aveva inciso un disco con George Russell e quindi anche lui doveva aver sicuramente gettato uno sguardo alle teorie di Russell. Fatto sta che nel corso degli anni 50 Coltrane comincia a esplorare in maniera piuttosto graduale la possibilità di avere tanti accordi, però in mezzo a questi accordi di avere delle aree in cui la musica si ferma. Allora, un primo esempio, per esempio, è Moments Notice, di cui sentiamo solo il tema. Attenzione. Stasi. Sentite il basso? Pam pam pam pam pam pam pam pam. Il tema è molto movimentato. E ci sono moltissimi altri pezzi di Coltrane di questo periodo, per esempio Grand Central, Naima. Questo è Grand Central. Eccolo. Ancora. Basso fermo. Poi si muove. E poi si riferma. Eccetera. Naima, la stessa idea però lenta, gli accordi si muovono ma sotto il basso è fermo. Sempre la stessa nota. Vado al prossimo. The Night of Thousand Eyes. Ho fatto un piccolo pasticcio con... Non ve le faccio sentire tutte perché più che altro mi sono accorto che è tardi, quindi non vi faccio sentire tutte le... i brani. Quello che vedete qui è un riassunto di quello che abbiamo detto fin qui. Cioè, quali sono i musicisti che sono influenzati da elementi modali? Ce ne sono alcuni che non rientrano in questa fascia di influenze. Django Reinhardt aveva scritto dei pezzi modali, Charles Mingus aveva scritto dei pezzi modali, ma non stanno nel giro dei musicisti di cui stiamo parlando. Bill Evans, tra l'altro, aveva assimilato degli elementi modali, questa idea di pensare alle melodie invece che agli accordi, perché vi ricordo che da parte di madre veniva da una famiglia russa, che tra l'altro cantava canti popolari russi, ed era, tra l'altro, Evans un grande appassionato di pianisti, di compositori come Kabalevsky e Khachaturian, che erano molto legati alla modalità. E poi gli altri nomi ci sono familiari. Quello che vedete sotto, la scuola Blue Note, Kenny Wheeler, il jazz rock, eccetera, sono, come dire, le ulteriori propaggini di questa scuola. Quello che però a noi interessa è come Miles Davis si è avvicinato, visto che l'amico suo John Coltrane era interessato a questi aspetti, il suo mentore George Russell era interessato a questi aspetti, Gil Evans era legato a queste persone, come ci si avvicina Davis? Un primo modo è un'occasione curiosa. È invitato a Parigi a scrivere la musica per il film Ascensore per il patibolo. E come sapete, Davis registra questa musica in un modo diventato poi leggendario, cioè arriva in studio, il regista Louis Malle gli fa vedere degli spezzoni del film, lui con i musicisti che sono in studio butta giù proprio degli schizzi di quattro note e improvvisano su questi schizzi. Questi schizzi di quattro note spesso non sono altro che delle scale. Cioè l'idea che c'è un basso fermo e Miles Davis può suonare una melodia libera, in questo caso particolare che stiamo per ascoltare, una melodia blues. Anche la scala blues è un modo, è una scala indifferente agli accordi che ci sono sotto, suono sulla scala blues. È quello che Davis fa. Qui e lì gli accordi si muovono per creare contrasto, ma sostanzialmente Davis ragiona in termini cosiddetti modali. Allora, vorrei vedere con voi una famosa sequenza di Ascensore per il patibolo in cui una bellissima Jeanne Moreau vaga di notte per Parigi chiedendosi che fine abbia fatto il suo amante, che invece è rimasto, come sapete, chiuso dentro l'ascensore dopo aver commesso l'omicidio, e la musica di Davis, modale, statica, accompagna il suo peregrinare. Con l'esperienza di Ascensore per il patibolo, Davis capì che poteva buttare giù una semplice melodia senza preoccuparsi degli accordi e ottenere un effetto di grande efficacia. Forse questa idea gli era venuta anche ascoltando i dischi di un pianista che lui adorava, che stava emergendo con prepotenza intorno alla metà degli anni 50, Ahmad Jamal. Jamal, in particolare, aveva inciso un brano che si chiamava New Rumba, che poi verrà arrangiato da Gil Evans in un famoso disco che si chiama Miles Ahead, in cui abbiamo appunto Gil Evans e Miles Davis insieme. Jamal appunto aveva scritto New Rumba, io vorrei farvi sentire un pezzetto di New Rumba all'inizio, perché dopo il tema c'è una base ritmica ripetuta, pa pa pa pa pa, parapapaba, che sostanzialmente equivale ad un accordo, anche se è ritmato, ad un accordo statico nell'accompagnamento. E il chitarrista Ray Crawford può suonare quello che gli pare modale, praticamente, su questa base ritmica ostinata. questo è il tema. Basato solo su una scala, indifferente a quello che c'è sotto, eccetera. Questo brano fu arrangiato nel 1957 da Gil Evans, arrangiato è una parola grossa, lo orchestrò, praticamente l'arrangiamento è identico, Gil Evans solo gli diede una veste orchestrale e diede la parte del solista a Miles Davis, che nel disco Miles Ahead suona un flicorno. Noi non ascoltiamo adesso quella registrazione, ma vediamo un filmato di un live del 1959 in cui, un live, una cosa in studio, in cui fanno New Rumba nell'arrangiamento del 1957 ma eseguito in studio nel 59. Nelle interviste di qualche anno dopo Davis disse che per il disco Miles Ahead, a un certo punto per un pezzo, non specifica quale, Gil Evans gli aveva detto: ma guarda, tu non ti preoccupare degli accordi, suona su questa scala, e gli aveva dato semplicemente una serie di note, un po' seguendo lo stesso principio di Stefan Volpe o di George Russell. E Davis scoprì che, seguendo solamente quella serie di note, aveva una nuova libertà, un po' la stessa che si era ritagliata negli studi parigini suonando la musica per Ascensore per il Patibolo. Allora ci guardiamo insieme, anche perché è uno spasso, vedere insieme integralmente New Rumba in questo video del 59 in cui sentiamo Davis suonare modale grazie all'arrangiamento di Gil Evans del pezzo. Il batterista è Jimmy Cobb. Poi sarà anche nel disco Kind of Blue. Poi c'è il solito presentatore. Ci sono altri esempi che vorrei mostrarvi di questo interesse di Miles Davis per il modale. Negli stessi anni in cui lavorava su New Rumba, Miles Davis ebbe l'idea di un pezzo che si chiama Milestones, che è basato su, sostanzialmente su due scale. Una parte fa, lo conoscerete, è una sezione di sol do. Okay. E poi la seconda parte, ricorderete, è questa. Il basso è fermo, ogni volta il basso è fermo e uno può improvvisare liberamente. Vi ricordo che il tema fa appunto così. Seconda sezione. Ora, Davis non è mai stato un vero compositore. Davis ha rubato un sacco di pezzi a tanti musicisti, Four, Tune Up, Blue in Green, Solar, Nardis, tutti pezzi che sono attribuiti a lui, in realtà lui li ha sgraffignati ad altri musicisti. E anche nel caso dei Milestones, l'idea ritmica che c'è sotto di questa melodia non è mica sua. Lui l'ha presa in realtà dal suo pianista, Red Garland, in una registrazione che il suo pianista aveva fatto di A Foggy Day, che comincia così. E poi c'è il tema di Gershwin. Quello che vi voglio dire è che Davis era un grande ricompositore, non un grande compositore, un grande ricco, un po' come il suo amico Gil Evans, cioè aveva bisogno di materiali presi da altri e poi gli dava un'idea nuova. Red Garland non avrebbe mai avuto l'idea di fare un pezzo modale. Invece Davis sì, partendo dallo stimolo del suo pianista che si inventa questo basso che va bene per un'introduzione, dice Red Garland. No, dice Miles Davis, ci posso costruire un pezzo intero. E in questo modo noi ci possiamo avvicinare appunto a Kind of Blue e in particolare al suo pezzo più famoso, So What. Vi ricordate il tema? Dietro Paul Chambers che suona il tema. Ora, questo celebre motivo, da dove viene? Viene da un'idea di Paul Chambers, il bassista che avete sentito, che in una registrazione di Yesterday su uno standard di un paio d'anni prima, di 3 anni prima, inizia così. Attenzione alla prima frase. Eccola lì. Dopodiché Chambers, come Red Garland sulle Foggy Day, improvvisa su Yesterdays. Ora, a questo punto, e ci avviamo verso la conclusione, vorrei farvi vedere come Davis ha modellato, ha plasmato in maniera diversa due pezzi modali importanti di quel suo periodo, e cioè uno è Milestones e l'altro, e questo è il primo, voglio far vedere la forma, vedete? Due volte lo stesso modo. Due volte la B, questa è la seconda. E poi queste sono le aree su cui poi si improvvisa. Fare la A in sol dorico, A sol dorico, B la eolio. Adesso anche se non sapete che vuol dire sol dorico, La eolio, però avete capito che sono delle aree statiche sulle quali gli improvvisatori possono muoversi con la massima libertà. Qual è la differenza di Milestones con So What, il pezzo che apre Kind of Blue? È che la struttura di So What paradossalmente è più conservatrice, è la classica forma A-A-B-A e il materiale è ridotto al minimo, perché l'idea di A viene ripetuta, che poi abbiamo visto un'idea di Paul Chambers, l'idea di A viene ripetuta mezzo tono sopra. Il tema. La caratteristica di Milestones e di So What è questa. Allora, il principio è, se io posso suonare liberamente su una scala e non c'ho vincoli, posso letteralmente suonare quanto mi pare, perché non ho steccati. Invece Milestones e So What, gli steccati ce l'hanno, vedete, non ho scritto il numero di battute, ma suonano 8 misure sul sol dorico, 8 sul sol dorico, 8 la eolio. Lo stesso per So What, se uno conta, sono 8 misure in re dorico, 8 misure in mi bemolle dorico. Quindi c'è una scatola Scelgo le note liberamente, ma sono comunque dentro una scatola. Davis e Evans pensarono, anzi, e gli Evans, sia Gil Evans che Bill Evans, in quello studio della Columbia, pensarono che se io ho la libertà di suonare quanto mi pare su una scala, posso anche appunto suonare quanto mi pare e sconvolgere la struttura tradizionale dei pezzi. E qui viene il pezzo Flamenco Sketches, che è uno dei pezzi meno appariscenti del disco Kind of Blue, ma in realtà è forse il più radicale di tutti. È meno, come posso dire, meno figo di So What, perché è una ballad, insomma, diciamo, meno attraente all'inizio, è un pezzo molto lungo, ne sentiremo un pezzettino solamente, complesso, ma dobbiamo capire esattamente come funziona. Allora, anzitutto l'introduzione di Flamenco Sketches viene da un'idea modale, guarda qui, ancora una volta Davis che rubacchia l'idea altrui, del suo amico Bill Evans, perché l'introduzione è la stessa di Peace Peace. Vi ricordate? Questa era Peace Peace. Che crea un senso di attesa e soprattutto di staticità modale, abbiamo visto prima. Solo che Evans su quella base ci improvvisava e ne aveva fatto, l'ossatura dell'intero brano. Possiamo sfumarlo, grazie. Flamenco Sketches inizia nello stesso modo. Ah, scusate, c'è ancora... Eccolo, Flamenco Sketches inizia nello stesso modo. Scusate, si sono sovrapposti i due brani. Tanto lo riascoltiamo adesso. Voglio farvi sentire, insieme all'inizio di Flamenco Sketches, risentiamo adesso l'inizio uguale a quello di Peace Peace, ma soprattutto voglio farvi vedere questa foto, in cui questa foto viene dal leggio di Cannonball Adderley, nella quale si vede il principio su cui si basa Flamenco Sketches. Una serie di scale. Vedete che non ha accordi, non ha niente, c'è il bocchino del sax alto che copre la prima scala, dopodiché ci sono le sigarette, questo vuol dire che si fumava in studio, pensate un po'. Dopodiché ci sono le diverse scale su cui Cannonball Adderley deve improvvisare. Questo è tutto il pezzo che ha, quel rigo e mezzo di musica. Quel rigo e mezzo di musica, di cui adesso riascoltiamo anche più correttamente l'introduzione, è Flamenco Sketches, che praticamente trascritto si basa su queste scale. Adesso non c'è bisogno di saper leggere la musica, l'importante è capire che una è questa, è quella su cui si basa. Ok? Una è questa, un'altra è questa, un'altra è questa, poi c'è una scala ispanica da cui viene il titolo del pezzo, scusate. Infine c'è questa. Queste sono quelle cinque scale che avete visto sul leggio di Cannonball Adderley. Come è costruito il pezzo? Che ci credete o no, funziona semplicemente in questo modo. Suono quanto mi pare sulla prima scala, suono quanto mi pare sulla seconda, eccetera eccetera. Voi direte: come quanto mi pare? E la ritmica come fa a seguirti? E infatti, se sentite le alternate take, ma anche quella originale come sentiremo adesso, quella finale, ci sono degli errori, ci sono anche delle incertezze, perché non tutti riescono a capire, per esempio, la ritmica. Bill Evans, quando accompagna, non capisce immediatamente quando bisogna cambiare. Paul Chambers fa addirittura il furbo, sentirete, durante l'assolo di Coltrane, quando Coltrane va sulla quinta scala, non suona la nota del basso. Aspetta. Giuro, adesso ve lo faccio sentire. Perché se non ho già sbagliato un attimo prima, allora dice, mi cautelo, Ma sentite, anche adesso in CD ci sono anche le alternate takes, quindi potete facilmente, con questo schema sotto gli occhi, potete facilmente capire come funziona. In realtà poi con la pratica, loro più o meno tendono a fare sempre le stesse cose, suonano per quattro battute la prima scala, Davis suona 4, 4, 8, 4 e lo stesso fa Coltrane. Notate che tutti si allungano molto sulla terza scala, che è quella ispanica, mentre Evans, per esempio, si allunga molto sulla prima, contrariamente agli altri. In realtà un piccolo trucco c'è per cambiare scala. Sapete qual è? La usa Coltrane a un certo punto. E quando faccio una scala veloce per salire, quello vuol dire, attenzione, si cambia. È un segnale sonoro. È una tecnica che viene sviluppata nei gruppi di Davis nella seconda metà degli anni 50 e poi ripresa anche da Coltrane e dallo stesso Davis nel periodo elettrico. Allora, noi ci ascoltiamo l'introduzione in cui sentiremo Peace Peace, l'assolo di Davis, non c'è un tema, semplicemente improvvisa su quelle scale, e l'assolo di Coltrane, dopodiché il pezzo sfuma. E cioè Peace Peace, uguale. La prima scala. Vi ricordo che Davis aveva davanti lo stesso pezzettino di spartito che avete visto di Cannonball, la foto precedente. Certo, ci viene da sorridere pensando, ma in realtà immaginate la tensione di fare qualcosa che non era ancora stato fatto nel jazz, perché qui succede una cosa particolare, e cioè che la struttura del pezzo è decisa da ogni singolo improvvisatore al momento in cui suona. Non c'è una struttura data come AABA di So What o AABBA di Milestones. Qui non c'è una griglia data, abbiamo 5 possibilità, l'unica regola è che non puoi saltare, che so, dalla scala 1 alla scala 3. Le devi fare tutte nell'ordine dato, ma puoi stare quanto vuoi su ciascuna scala. Questo vuol dire che la struttura del pezzo è improvvisata, la forma è improvvisata. Da chi? Dal solista. Quindi ogni solista dà una struttura diversa al pezzo. E questo vuol dire, come avete sentito, prendersi dei rischi. Prendersi dei rischi anche per il produttore, che decide di lasciare la take, anche definitiva, quella con dove c'è qualche piccola incertezza, qualche piccolo errore, qualche piccolo trucco per cercare di non cadere. Ora, salto la penultima slide che avevo preparato perché è tardi, che riguardava Blue in Green, una questione piuttosto ritmica, diciamo, ma invece vorrei portarvi direttamente all'ultimo esempio. Abbiamo visto che in tutta questa storia Stefan Volpe, Gil Evans, George Russell, avete notato come arriviamo a questo concetto modale, quello di So What, quello di Flamenco Sketches, in generale, diciamo, l'ossatura di Kind of Blue, mettendo insieme tutta una serie di musicisti che hanno avuto una storia lunga. Vorrei ricordarvi, tanto per essere precisi, che a lavorare con George Russell ci sono stati tutti i musicisti che poi fanno parte del disco Kind of Blue, che sono anzi gli artefici, perché avete visto quanto delle idee, per esempio, di Bill Evans sono dentro anche Flamenco Sketches. La verità è che Davis si dimostra ancora di più, una volta di più, per Kind of Blue, uno straordinario leader, dove per leader non intendo solo quello che dà il nome al gruppo, che si mette davanti o che decide il repertorio, ma leader è colui che in questo caso prende delle fonti sonore disparate e con esse crea un nuovo universo sonoro, con una sua specifica identità. Quindi prendendo l'introduzione di Red Garland, prendendo la frase, pensate l'idea di prendere quella frase di Paul Chambers, e dire questo diventa il tema, e sarà un tema che però non prosegue in Yesterdays, ma sarà la base di un pezzo dove non ci sono accordi, e diventa So What. Questo è genio capace di ricomporre, e in questo Davis si è trovato in grande sintonia con un altro genio della ricomposizione, che è stato appunto Gil Evans. Ora, noi sappiamo, e concludo, che Kind of Blue è diventato un disco di culto, e l'assolo di Miles Davis è diventato un assolo di culto, questo assolo tutto basato sulla scala di Re dorico e di Mi bemolle dorico, un assolo trascritto, imitato, eccetera, al punto che negli anni Ottanta George Russell, che dietro le quinte è stato uno di quelli che ha fatto circolare le idee da cui è venuto fuori il concetto modale, ha pagato un meraviglioso omaggio all'assolo di Davis orchestrandolo per Big Band. Quindi ha preso un assolo improvvisato e lo ha fatto suonare alla sua Living Time Orchestra. Ne sentiamo un pezzettino in una registrazione degli anni Ottanta, su un ritmo funky. Quindi noi adesso non ascoltiamo l'assolo di Davis originale che conoscete tutti, ma sentiamo come lo fa l'orchestra di George Russell. Come se fosse una composizione dello stesso Davis e un po' dello stesso Russell. Perché il concetto che c'è sotto, in fondo, è quello del Lydian Chromatic. Noi lo tronchiamo brutalmente per ricordarvi, chiedo scusa, per ricordarvi che intanto c'è una prossima lezione di jazz il 7 aprile. E niente, è andato in tilt. Volevo mostrarvi, no, vi faccio vedere questa cosa perché è importante. Eccolo qui. Che la prossima lezione di jazz è il 7 aprile, sempre alle 11, qui sul rapporto tra, sarà uno spasso, vedrete, sul rapporto tra jazz e danza, su come le due cose hanno influenzato il linguaggio dell'uno e dell'altro. Come vi ho detto, in questa conferenza non abbiamo parlato di tutte le cose più ovvie, ma anche importanti, di Kind of Blue, che potete trovare in quei due bellissimi libri che vi segnalo lì sopra, e niente, vi do appuntamento fra un mesetto. Grazie.